Se se la sagoma sin cavola. E se la sagoma si incavola. Sbirro lascia stare, sbirro non esagerare. Sbirro sta a sentire e non domandare. Breeder non sa niente, breeder ne vede ne sente. Breeder non canta se lo fai per la sua gente. Quindi sbirro lascia stare, sbirro non esagerare. Sbirro sta a sentire e non domandare. Breeder non sa niente, breeder ne vede ne sente. Breeder non canta se lo fai per la sua gente. Breeder is my name, in AKA la sagoma. Penso ai cazzi miei, non aggiungo posti a tavola. Se non so chi sei te lo dico a patti chiari. Non rischio caro amico che si siedano gli infami. È troppo alto il costo del prezzo da pagare. Quindi trovo un altro posto se con me tu vuoi parlare. Bri finisci male, non fare il cretino. Lo stronzo se la ghigna e tira fuori il distintivo. Sto pezzo di cane manco a dirlo. Un documento porta in mano con su scritto sono sbirro. Io vacci piano per Dio. Ma non ne vuol sapere bro, pretende che gli dia il mio. Glielo do, non lo so, aspetto ancora un po'. Ma intuisce, perquisisce, per un cazzo in tasca ho forse una brasca o due. Perciò fammi sto verbale, dopo ognuno per le sue. Sbirro lascia stare, sbirro non esagerare. Sbirro sta a sentire e non domandare. Breeder non sa niente, breeder ne vede ne sente. Breeder non canta e se lo fai per la sua gente. Quindi sbirro lascia stare, sbirro non esagerare. Sbirro sta a sentire e non domandare. Breeder non sa niente, breeder ne vede ne sente. Breeder non canta e se lo fai per la sua gente. Ci sono quelli che lo sbirro lo fanno per lavoro. E ci sono quelli che lo fanno per non farsi cazzi loro, giusto per il gusto di sputtanare il prossimo, sparlando su di uno che poi manco conoscono. Fanculo a questi infami, fanno solo danni. Se li avessi tra le mani, altro che campar cent'anni. Dammi una corda che alla gola ti ci impicco, così è la volta buona che te ne resti zitto. Un giro bello stretto, almeno secco resti muto, con l'ultimo respiro giusto per chiedere aiuto. Amico ti saluto perché stai per sopperire, lo sapevi anche tu, se sei merda fai sta fine. Quindi ora su, paga pegno di condanna. Sbirro non sei degno nemmeno di tua mamma. E se Eva è una puttana allora non mi meraviglio. In fondo chi mi infama a lei gli viene figlio. Sbirro lascia stare, sbirro non esagerare. Sbirro sta a sentire e non domandare. Breeder non sa niente, breeder ne vede ne sente. Breeder non canta e se lo fai per la sua gente. Quindi sbirro lascia stare, sbirro non esagerare. Sbirro sta a sentire e non domandare. Breeder non sa niente, breeder ne vede ne sente. Breeder non canta e se lo fai per la sua gente. Breeder lascia stare, breeder non sperare, sbirro cazzo fai, breeder. Io insieme a te non ci voglio parlare. E se la sagoma si incavola? Se e se la sagoma si incavola? Yo. E se la sagoma si incavola? Non canto ma se vuoi ti rimo su una favola.